Come parole, dopo avervi innanzitutto rivolto a tutti voi il benvenuto ed il saluto dell'Istituto Trentino di Cultura, del Consiglio di Amministrazione, della provincia e della città di Trento, a tutti voi, soprattutto a quelli che sono venuti da fuori. E dopo, soltanto mi permetto di rivolgere un ringraziamento vivissimo a tutti voi che siete intervenuti, ma soprattutto un ringraziamento vivissimo ai due coordinatori, la professoressa Bon di Monaco e il professor Raimondi di Bologna, coordinatori del seminario di questa settimana, e a tutti voi e a tutti i relatori e a tutti voi che siete intervenuti. Dopodiché l'occasione, stante anche il fatto che questa settimana, questo seminario, che è il secondo del 1980 e quindi anche l'ultimo, e è il 14° dall'inizio dell'attività dell'Istituto Storico Italo-Germanico, desideravo, mi pare non fuori posto, un pochino ricordare, o quantomeno per coloro che meno conoscono queste nostre istituzioni trentine e questa nostra attività scientifica, il dire molto sommariamente un pochino di che si tratta, come siamo organizzati, quali sono i nostri scopi e quindi all'interno dei quali si colloca questa attività scientifica e quindi anche la settimana che vi apprestate a fare. L'Istituto Trentino di Cultura, che è una specie di agenzia culturale della provincia autonoma di Trento e di alcune altre forze ed enti locali che partecipano finanziariamente a sostenere l'onere finanziario dell'Istituto, ha come fine più generale della sua fondazione è quello di vitalizzare la presenza culturale e scientifica in una provincia periferica, piccola come la nostra, nel momento in cui le strutture tradizionali sulle quali si basava la solidità culturale della provincia italiana sono state messe in crisi dal tumultuoso progresso degli ultimi decenni. Ciò che distingue l'azione dell'Istituto Trentino di Cultura da altre iniziative analoghe di altre regioni è, da una parte, la sua autonomia di azione come agenzia indipendente da ogni assessorato, quindi indipendente in un certo senso dal governo locale. Deve solo rendere conto fino all'ultimo del denaro pubblico che riceve, ma nient'altro. Dall'altra, il fatto che non ha mai puntato su programmi che diano lustro alle amministrazioni, ma sono anche appariscenti ed effimeri come mostre, congressi, eccetera, ma piuttosto rivolto alla creazione di strutture che rappresentino veramente un salto di qualità per la comunità nella quale sono inserite. Così è nato questo istituto, l'Istituto Superiore di Scienze Sociali, che poi si è trasformato in libera università ed ora è in via di sviluppo. Così sono nati altri istituti, come questo, Istituto Storico Italo-Germanico, all'interno sempre dell'Istituto Trentino di Cultura, e poi anche l'Istituto di Scienze Religiose, che è un altro, accanto a questo, e poi un istituto per la ricerca scientifico-tecnologica, sempre all'interno dell'Istituto Trentino di Cultura. Tutte queste iniziative hanno quindi la funzione di attivare una circolarità viva ed efficace tra le correnti della cultura e della ricerca italiana ed europea e la nostra comunità locale, ma con un processo di divulgazione e quindi di impoverimento, ma al massimo livello possibile. Questo è anche il modo di muoversi dell'Istituto Storico Italo-Germanico con la sua biblioteca e i suoi seminari. Anzi, l'Istituto Storico è al cuore stesso dell'attività dell'Istituto Trentino di Cultura, perché traduce questa istanza nella realtà specifica del nostro essere terra al confine di due grandi culture. Su questo punto della funzione dell'attività dell'Istituto come unione fra le due culture non mi soffermo perché altre volte ne abbiamo parlato. Voglio solo ribadire qui ancora oggi che lo riteniamo ancora valido e degno di ogni sforzo sia sul piano dei mezzi che degli uomini. Voglio solo dirvi, per dare una dimostrazione concreta del nostro modo di procedere e fermandomi solo sull'ultimo anno, che l'Istituto Trentino di Cultura ha acquistato negli scorsi mesi per questo istituto la biblioteca ricca di circa 15.000 volumi della ex Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa che aveva sede a Milano e che si è in qualche modo ha sospeso l'attività e noi abbiamo acquistato la biblioteca, l'abbiamo portato qui. Questo istituto possiede quindi ora una delle migliori biblioteche per la storia delle strutture statali e delle autonomie. Potrei anche aggiungere che in questi giorni è proprio arrivata da Bonn la biblioteca del professor Jedin, che è recentemente scomparso, lo storico del Consiglio di Trento, come sapete, e che ha lasciato in eredità, diciamo, a Trento la sua biblioteca, e senz'altro l'Istituto Storico Italo-Germanico ne avrà a disposizione l'uso. E anche questo è un acquisto certamente non secondario, accanto agli altri, a tutti gli altri investimenti che in biblioteca sono stati fatti e che potete anche constatare. Non si tratta di una biblioteca morta, ma di uno strumento di ricerca che può e deve divenire polo di attrazione per nuove energie di ricerca e per la crescita culturale delle nuove generazioni. Questo è il nostro scopo. Un discorso analogo può essere fatto per questi seminari di settembre, per le due settimane che ogni anno riuniscono qui studiosi più giovani e meno giovani, già celebri o in via di esserlo, dalle varie regioni italiane e tedesche. Non si tratta di congressi fatti nel vuoto, nelle località turistiche, anche se speriamo che questo bel settembre trentino possa essere di aiuto, di ausilio ai vostri lavori, ma di una serie di incontri in cui si accomuna un patrimonio che non viene meno, ma che si moltiplica di anno in anno, grazie anche alla struttura dell'Istituto che è garanzia di questa continuità. Siamo già al settimo anno di vita di questa esperienza, come dicevo. L'Istituto è nato infatti nel 1973, che ha trovato da sé le proprie forme di organizzazione e di espressione con la partecipazione attiva di ormai qualche centinaio di studiosi che ai seminari hanno partecipato. Ho la certezza anche quest'anno che noi rimarremo debitori a tutti questi presenti che hanno accettato il nostro invito, ed è per questo che li ringrazio nuovamente, di un'ulteriore crescita di questa esperienza che proprio nel servizio alla cultura e alla nostra comunità ha la sua prima e fondamentale giustificazione. E con queste brevi parole introduttive, e così anche un pochino richiamano quella che è stata l'attività dell'Istituto in questi anni, io rivolgo nuovamente un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento particolare al segretario dell'Istituto Storico, il professor Prodi, che è un po' il motore e l'anima, è quello che è sempre qui presente. L'ho detto io che mi sembrava che non funzionassero bene, ma l'Istituto funziona meglio, vediamoci. Ecco, quindi un ringraziamento particolare, unito all'augurio che questi vostri lavori di questa settimana siano molto fruttuosi e non troppo pesanti. Grazie. In due tornate in cui la relazione è seguita dopo un breve intervallo da una discussione che ha almeno altrettanta importanza, se non maggiore, della relazione, cioè nel senso che i lavori non sono divisi per relazione ma per mezze giornate, direi, di appunto e il nostro schema continuo è di discutere usando ognuno la propria lingua materna e supponendo la comprensione della lingua dell'altra lingua. Questo non è sempre vero, cominciando dal sottoscritto che alcune volte si trova in difficoltà, ma si supplisce anche con gli assunti e vedremo regolarci, direi, empiricamente a seconda del risultato. E certamente i primi due giorni sono anche di rodaggio in questo senso. Abbiamo escluso la traduzione simultanea perché ci sembrava che fosse una cosa abbastanza mortificante, anche se comoda, cioè che la traduzione simultanea finisse in qualche modo per paralizzare la spontaneità di una riunione come la nostra. Questo direi è essenziale, i lavori si concluderanno venerdì verso il punto alle 18. Tale che chi vuole può dormire qui sabato in giro a vedere il Trentino per l'appunto, e chi deve partire può rientrare in serata. Ecco, detto questo, io farei una specie di appello, insomma, nel senso di presentare agli altri i partecipanti, molto semplicemente. Quindi, oltre ai due coordinatori che sono qui presenti e che sono già stati presentati, ecco, c'è il professor Dickerhoff, qui, forse di Vancouver, di Aisto. Poi il professor Gall, di Vienna, il professor Hammerstein. Er kommt erst am Donnerstag. Ecco, arriva solo giovedì il professor Hammerstein di Bad Homburg, il professor Kraft, ecco, di Mainz, poi Olmi, il professor Olmi. Caro Beppe, bisogna che tu sia da vedere. Non c'è mica. Questa volta vieni qui. Oh. Cioè, è veramente un dramma, ecco, proprio. No. Siamo insieme da 8 anni, ma non è imparato. No, ma la gente ti sopporta, tu ti ha detto, senza fuggire. Ecco, il professor Pecorella arriverà solo giovedì anche lui, no? Ecco. Il professor Quonda, non si interpiace. Ecco, Rossi Muti non può venire, ecco, erano delle conversazioni, difatti non lo trovate nell'elenco, nel diario dei lavori. Il professor Basone, che sarà il primo relatore stamattina, il professor Zittler, dell'Università di Regensburg, il professor Basoni, e dell'Università di Firenze, come loro pensate. I borsisti e delle novità di quest'anno, è inserito una novità, appunto, di professori ospiti, nel senso di professori interessati che non sono relatori ma partecipano al dibattito e sono appunto particolarmente competenti in questo. Gli altri anni avevamo solo, diciamo così, i relatori e i borsisti, poi si è visto che proprio per la caratteristica del nostro lavoro anche per il seminario di storia medievale della scorsa settimana, avevamo tre professori ospiti che avevano chiesto di poter partecipare come interessati al progetto. In questa settimana abbiamo il professor Benzoni, ecco, di Venezia, la dottoressa Boltoni, anche lei venga avanti, condannata a venire avanti. No, io penso che stare intorno al tavolo serva proprio per lavorare meglio, insomma, ecco, non è una... ecco, se si può contare. Il professor dottor Lenzenjäger, che ho visto là in fondo, e qui do il benvenuto, da Vienna, ecco. Il professor Maccagni. No, vieni davanti. Vieni. Almeno non nasconderti. Ma qui bisogna. La professoressa Tani Terina non è arrivata. La professoressa Don Giorgi c'è invece di fronte a noi. E la professoressa Maria Ricchini Bonelli non è arrivata. I borsisti sono 15 e sono stati assegnati. E due relatori in tedesco für Kurzreferate, Dr. Bernd Röck. Ecco, adesso sono tra i borsisti, no? E borsisti come relatori. Sì, ma qui non c'è, questo verrà fuori perché non c'è una distinzione, cioè non da sé. Stai meglio che uscite. Mi prego. La dottoressa Brandilla di Milano, cioè io uso l'espressione ricercatori più anziani e meno anziani, poi dopo poi non voglio offendere nessuno, poi con questa categoria intermedia dei professori ospiti si può così confondere tutto il mondo. La dottoressa Brandilla di Milano, con il dottor Brown, viene da Roma, ma studia presso l'università tedesca. Ah, lei vive a Roma. De Capitani, di Berna, di Simone, da Roma, Emberger, da Tübingen, Gritsch. Vedo più avanti, così ci si vede meglio, da Innsbruck, Lazzari, viene da Firenze, Menoni Brunazzi, da Parma, Müller, da Monaco, Reinhard Müller, poi bisogna distinguere Winfried Müller, da Monaco pure, Carlo Natali, da Padova, il dottor Röck, da Monaco, il dottor Urbioni, da Venezia, la dottoressa Marta Cavazza, da Bologna, viene, e il dottor Turchini, dell'Università Cattolica di Milano. Questo è, diciamo, la presentazione di coloro che nell'insieme formeranno questa equipe di lavoro. E con questo ho finito il mio compito. Ringrazio ancora l'onorevole Kessler, che adesso deve assentarsi per motivi di impegni politici, e quindi i coordinatori entrano nelle loro funzioni. Io posso pensare dal tedesco all'italiano. Dall'italiano al tedesco? No, allora, io purtroppo mi devo aspettare. Signora, saluto. Molti auguri. Tante grazie. Scusatemi, poi se lungo la settimana gli impegni romani mi consentiranno di venire a trovarvi, non mancherò certamente di farlo. Comunque auguri molti per le vostre lavori. Einige, wenn mit vielen Dank an Professor Prodi. Zunächst von deutscher und österreichischer Seite. Ich spreche in Deutsch, bin noch nicht geübt im Italienisch, aber ich hoffe, es bessert sich. Leider liegen keine Papiere vor, keine Papers. Ich hatte für die italienischen Kollegen Papiere vorbereitet, aber sie zu Hause vergessen. Alle meine Materialien. Ich bitte um Entschuldigung und werde einige Aspekte improvisatorisch zur Einleitung bringen, um die Referate, die von deutscher und österreichischer Seite gehalten werden, in einen Rahmen zu stellen. Das Rahmenthema Universitäten, Università, Akademie, Società, Universität, Akademie und gelehrte Gesellschaft ist sehr breit. Darum haben Professor Raimondi und ich uns den Schwerpunkt gelegt auf die Akademien. Das heißt nicht, dass die Universitäten ausgeschlossen sind. Im Gegenteil, bei den Vorbereitungen hat sich ergeben, dass das historische Phänomen gelehrte Sozietät, Akademie, nicht loslösbar ist vom historischen Phänomen Universität. Es sind beides institutionelle Grundformen der Wissenschaftsorganisation in Europa. Sie standen stets in einem Spannungsverhältnis, in einer Korrelation. Und darum wird auch das Schema, das Schema der Relationi, die Reihenfolge der Referate anders sein. Von deutscher Seite ist es wichtig, an den Anfang zu stellen, die Frage des Begriffes Akademie, des Begriffes Universität, nämlich und die Frage der Rechtsgrundlagen dieser Institutionen, denn es fällt auf, dass ja der Akademiebegriff vom 15. bis zum 18. Jahrhundert oder vom 15. bis zum 17. Jahrhundert keineswegs monopolisiert ist für ganz bestimmte Institutionen. Viele Universitäten im deutschen Raum, im Raum nördlich der Alpen, nennen sich Akademien. Darum wird Herr Kollege Harald Dickerhoff und anschließend heute Nachmittag und anschließend Herr Dr. Bernd Röpp zu diesen Fragen grundlegend für den ganzen Zeitraum Stellung nehmen, damit wir Definitionen haben für Universität und Akademie und Grundsatzfragen zur Typologie der wissenschaftlichen Institutionen im Raum des Alten Reichs. Nun nur ganz kurz ein Wort zur Periodisierung. Periodisierung der Akademiegeschichte unter dem Aspekt auch der Wechselwirkung von Universität und Akademie. Ich darf betonen, dass es Wissenschaftsakademien im engeren institutionellen Sinn eigentlich erst im 18. Jahrhundert gibt, jenseits des Zeitraumes, den wir behandeln. Vorher gab es eine Vielzahl von Societäten, Sodalitates, gelehrten Vereinen mit stärker privatem Charakter. Die Akademie aber als staatlich geschützte, also staatlich oder fürstlich gestiftete Vereinigung mit dem Zweck der Forschung wurde ideell vorbereitet im 17. Jahrhundert, besonders durch Francis Bacon, wurde theoretisch untermauert und realisiert von Leibniz. Über die Akademiepläne von Leibniz als Abschluss wird sprechen Notker Hammerstein, heute noch nicht hier. Nun zur Periodisierung. Ich sehe für den deutschen Raum, den mitteleuropäischen Raum, drei wesentliche Phasen. Erstens Frühhumanismus, 15. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert. Unter italienischem Einfluss tritt allmählich neben die bereits festgefügte scholastische Universität, neben das Studium Generale oder die Universitas, der Akademiegedanke. Es entstehen neue Zentren außerhalb von Universitäten, etwa Heidelberg oder Elsass, Kreise von Gelehrten mit überregionalen Beziehungen, vor allem mit einem neuen wissenschaftlichen Programm, den sogenannten Studia Humanitatis. Ich möchte das nicht ausführen, sondern gleich einige Aspekte als Fragen stellen, Fragen auch an die italienischen Kollegen. A. Das Programm der Studia Humanitatis Frage, war dieses Programm der Studia Humanitatis auch eine Wurzel für das Wissenschaftsprogramm von gelehrten Akademien? Für die Scheidung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Die Studia Humanitatis waren ein Programm erneuerter Artes, Wurzeln in den Artes Liberales. Und hier nun hoffe ich dann von dieser Ausgangsbasis her, dass Herr Kollege Kraft, Fritz Kraft, der Wissenschaftshistoriker, Naturwissenschaftler und Philologe ist, mit seinem Vortrag Stätten der Naturforschung vielleicht auch Diskussionsantwort geben kann auf diese Frage, woher kommt die Zweigliedrigkeit? Es entstehen einerseits naturforschende Gesellschaften, es entstehen andererseits Sozietäten zur Sprachpflege in Italien, dann mit Verzögerung in Frankreich, England und Deutschland. Das wäre eine Frage. Frage B. Es hat auch den Versuch gegeben, die Studia Humanitatis in neuen Institutionen einzugliedern, um 1500 etwas später. Nur drei Beispiele: das Collegium Poetarum et Mathematicorum in Wien von Celtis gegründet. Gleich eine Frage, die dann angehen wird, den Vortrag von Professor Franz Gall. Sie behandeln den Einfluss italienischer Beziehungen, den italienischen Einfluss im akademischen Wien. Auch hier die Frage, ob diese Kollegiengründungen eine Institution sind, die in die Vorgeschichte des Akademiegedanken gehört. Ähnlich Löwen, Collegium Trilingue oder in Paris das Collège Royal. Frage C, die sich ergibt, die Frage nach dem Sozialstatus von Mitgliedern solcher gelehrter Vereinigungen. Wie rekrutieren gelehrte Sozietäten ihre Mitglieder? Sind es Professoren der Universitäten? Sind es Adelige? Sind es Bürgerliche? Sind es Graduierte oder sind es Nicht-Graduierte? Das ändert sich im Verlauf der Zeit. Wichtig aber vom Ansatzpunkt her, die Humanisten mit den Studia Humanitatis haben kurzfristig das System, das scholastische System des Studium Generale verachtet, abgelehnt. Zweite Epoche, 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert ist Höhepunkt, bringt den Höhepunkt der Akademiebewegung in Europa, und zwar in Theorie und Praxis. Paris, die großen staatlichen Akademien, beginnend mit der Académie Française für Sprachpflege, Académie des Sciences für Naturwissenschaften, London Royal Society. In Deutschland die älteste eigentliche private Akademiegründung, die Gründung der sogenannten Leopoldina in Schweinfurt, einer Naturforscherakademie. Meine Frage A für Italien und Deutschland: Welche Rolle haben diese gelehrten Vereinigungen für den wissenschaftlichen Fortschritt? Verfügen diese Akademien, ich nenne sie so, über Bibliotheken, über Instrumente, über einen Apparat, der vor allem in der Naturforschung in der Neuzeit von Bedeutung wird. Nur ein Aspekt dazu, zur Wissenschaftsgeschichte. Das Commercium, in noch drei, fünf Minuten, das Commercium Literarum ist entscheidendes Vehikel des Fortschritts. Das heißt, noch im 17. Jahrhundert, Fortschritt spielt sich ab als Rezeption. Alles anfechtbar, aber nur mal als Gedanke. Während die Universitäten sich im spezifisch deutsches Problem abschließen in Territorien, sie werden territorial und konfessionell, entsteht das Bedürfnis der überregionalen und des überkonfessionellen Austausches. B, eine Beobachtung. Und hier nun wird Herr Professor Zimmermann, Professor Walter Ziegler, Regensburg, einsetzen. Und einsetzen Herr Winfried Müller mit einem Sonderreferat. Die Frage nach der Rolle der Orden, der religiösen Orden und der Klöster für die Akademiebewegung. Beginnt im 17. Jahrhundert, führt hinein in die großen Akademiebewegung im 18. Jahrhundert. Nur ein Gedanke dazu. Ordensorganisation und Kongregationsbildung könnten mit ein Vorbild sein eines organisatorischen Prinzips für großes Teamwork. Großes Vorbild die französische Mauriner Kongregation Mabillon. Man könnte die Mauriner Kongregation ansprechen als eine Akademie. Und C, das sagte ich schon, ein spezifisch deutsches Problem, ich weiß nicht, ob auch in Italien, die Überwindung des konfessionellen Prinzips im Wissenschaftsbetrieb ging aus von den Akademien. Dritte Epoche, 18. Jahrhundert, womit wir aufhören, der Übergang zur staatlichen oder fürstlichen Stiftung, zum staatlichen Patronat, verleiht den Akademien neuen Charakter. Es entstehen große staatliche Wissenschaftsakademien, Berlin, Erfurt, Göttingen, München. Ein Aspekt dazu, sie stehen im Zusammenhang mit einer großen Krise der Universitäten. Frage grundsätzlich, kann man Akademiegründungen und Universitätsreformen in Beziehung zueinander sehen. Zum Zweiten entsteht das deutliche Bewusstsein für die Spannung zwischen Lehre und Forschung und die Entstehung eines neuen Begriffes, eines neuen Wissenschaftsbegriffes, Forschungsbegriffes. Allerdings, die Forschungsakademien sind diejenigen Institutionen, die den Gedanken der Anwendung, der Praxisbezogenheit ganz entschieden betonen, die Wissenschaft binden an utilitaristische, staatspragmatische Zwecke. Das nur zur Einführung. Es gäbe eine weitere Epoche jenseits unserer Zeit, die Rheinbund-Ära, die Ära Napoleons, die Verstaatlichung der Akademien in Deutschland zu Zentralinstitutionen und im 19. Jahrhundert das Wiederentstehen der freien Gelehrtenvereinigung nun mit dem neuen Forschungsbegriff. Professoressa Böhm ha delineato come momenti della nostra discussione, la parte italiana aveva concordato di considerare soprattutto la zona mediana, quella che la professoressa Böhm ha chiamato il 600 con il suo momento di teorizzazione prassi di un'accademia che, pur riattaccandosi a una tradizione che per comodità possiamo chiamare umanistico-rinascimentale, introduce attraverso una crisi evidente della cultura anche nuove motivazioni, nuovi problemi. Mentre, anche se verrà ripreso il discorso, si era concordato per la parte italiana di lasciare un poco in ombra lo sviluppo settecentesco che avrebbe altrimenti dilatato troppo le nostre considerazioni. È anche vero che proprio per la cornice che ha dato la professoressa Böhm, anche restando dentro una certa area, occorrerà per forza richiamarci al prima e in certi casi, proprio per valutare certe premesse, certe radici, come diceva la professoressa Böhm, anche trasferirci al periodo successivo. Nell'ipotesi iniziale, tenendo conto proprio dell'area secentesca come un'area nella quale modelli culturali diversi cominciano a essere messi in confronto e si discute anche della loro legittimità, si era pensato, prima, di associandoci alla ipotesi anche degli amici tedeschi, di chiarire il sistema organizzativo e le ragioni giuridiche di queste accademie. Secondo, anche dalla nostra parte, la composizione sociale. Poi, i modelli culturali che cominciano a essere previsti dalle diverse accademie, magari i paradigmi o gli abbozzi di paradigmi, e ancora le dotazioni, gli apparati, la consistenza degli oggetti d'uso, da una parte, intendendo sotto questo profilo il riferimento soprattutto ad accademie di tipo più fortemente scientifico, strumenti oltre che libri componenti una biblioteca, e secondo aspetto, politica di pubblicazioni, comunicazioni e recezioni dell'attività dell'Accademia stessa. Sono accaduti alcuni spostamenti rispetto a questo programma, ci sono state alcune aggiustature, ma nell'insieme questi saranno i problemi che noi ci proponiamo siano trattati attraverso, primo, le relazioni dei relatori, secondo il contributo, il dialogo degli ospiti ai diversi livelli. Prima di chiudere però questa esposizione, mutando per un momento la tecnica, ma proprio per creare questa specie di giusto concerto, mutando la tecnica della professoressa Böhm, vorrei introdurre ancora alcune considerazioni. Una soprattutto che può anche dare un senso alla nostra riunione, il problema delle accademie sta quasi diventando, o è già diventato, un argomento di moda storiografica. Ma proprio a questo titolo varrebbe la pena che uno storico della letteratura italiana ricordasse che vecchi modelli della storiografia erudita settecentesca prevedevano proprio questo tipo di analisi, poiché nella storia del Tiraboschi, che in fondo è un prodotto di questa realtà e che per tante ragioni, soprattutto nel nostro clima italiano, conviene rimettere in discussione, se io mi fermo al tomo ottavo, parte prima, che riguarda proprio il 600, il capitolo secondo, e questo lo passo subito al professor Benzoni, è intitolato Favore e munificenza dei principi verso le lettere, ma il capitolo terzo è Università, scuole pubbliche ed accademie, e il capitolo quarto è Biblioteche, musei di antichità e di storia naturale, col che biblioteche o musei di antichità e di storia naturale, come due grandi capitoli che di pieno diritto dovevano fare parte di una storia della cultura e in questo caso di una storia della letteratura. Posso anche aggiungere, visto che sono già stati fatti i nomi di Babillon e di Montfaucon, che parlando delle biblioteche italiane, il Tiraboschi naturalmente farà soprattutto riferimento alle grandi relazioni, il diario e l'iter, e del Mabillon e del Montfaucon, a proposito delle biblioteche pubbliche e private e della loro consistenza trovate in Italia, visto che essi furono l'esempio di cui Christeller può essere oggi considerato in qualche modo una continuazione. Va anche detto, perché ci si renda conto di un problema che poi figurava di continuo all'interno delle considerazioni anche non strettamente tecniche, che da questo punto di vista, a parte il Mailänder con tutta la sua meritoria opera di raccolta, il problema delle accademie è stato posto, per esempio, già come questione istituzionale da certi storici dell'arte prima che da certi storici della letteratura. E anche di questo poi bisogna in qualche modo tenere conto, perché qualche volta ci si dimentica anche di questo aspetto. Vorrei ricordare, anche perché è un tentativo già di tipologia, che Nicolas Pefsner scrisse nel 1940 Accademie d'arte passate e presenti, Academies of Art Present and Past and Present, ristampato poi qualche anno fa, e a distanza di 7 anni la Yeats scriveva a sua volta un libro sopra le accademie francesi del XVII secolo che in fondo cercavano di presentare all'interno della realtà viva del crescere del fatto artistico anche il valore, la pienezza dell'Accademia. Ma qui dovrei anche segnalare che uno dei più grandi storici dell'arte di tutta la di tutto il nostro secolo, Riegel, in un libro che a mio avviso resta ancora fondamentale, pubblicato postumo, La formazione dell'arte barocca, l'origine dell'arte barocca a Roma, aveva proprio 2 pagine, a mio avviso, straordinariamente importanti sulla formazione delle accademie d'arte che egli vedeva nella zona dedicata al Carracci, dove introduceva un'argomentazione che probabilmente può essere ancora meditata, in quanto Riegel diceva che nel momento in cui si spezzava un canone artistico e al canone artistico unico si sostituivano valori, misure diverse, diventava necessario che si dessero istituzioni che lo discutessero, che lo opponessero in qualche modo. E in fondo stabiliva una correlazione, anche se per lui quel termine non era un termine giustamente da trasformare in mito, tra quello che più tardi si sarebbe chiamata la crisi del soggettivismo manieristico e la necessità di costituire anche delle forme di ordine, di interpretazione del passato. Anche qui Riegel percepiva, sia pure in pochi accenni, il senso di una trasformazione e in qualche modo di una diversa considerazione del passato e nello stesso tempo anche del fare. Ma a questo proposito, per arrivare fino ad alcuni dei documenti più recenti, sarà anche da dire, saltando certe operazioni intermedie, che in un volume antologico, che è appunto l'insieme di un grosso seminario tedesco intitolato Simposio Barocco del 1974, curato mi pare soprattutto dallo Schöne, si studiavano appunto problemi abbastanza vicini ai nostri, anche se l'Accademia restava un po' in ombra, poiché gli argomenti che dovevano essere presi in considerazione rispetto alla letteratura tedesca del XVII secolo erano Stadt, città, Schule, scuola, Universität e Buchwesen, o commercio in fondo editoriale. A questo proposito, dalla parte italiana, ma con una oramai specificazione più fortemente scientifica, potremmo ricordare che proprio nel volume recente, il terzo degli annali della storia d'Italia e Einaudi, si leggono diversi capitoli dove l'Accademia o è una protagonista o è una comprimaria, e l'ultima parte degli annali, proprio per cura del Baldini e del Besani, Baldini autore anche di altre cose, è proprio dedicato a organizzazione e funzione delle accademie. Anche da queste ultime pagine risulta evidente che almeno per la parte italiana, in rapporto ad alcuni dei problemi che erano il punto di riferimento e nello stesso tempo di omologia con le considerazioni degli studiosi tedeschi, si pone una doppia questione, soprattutto per quello che riguarda il 600, che, come riconosceva anche la professoressa Böhm, è certamente un cardine nella trasformazione di qualche cosa che esisteva perché diventi anche altro. Da una parte occorre una rappresentazione sempre più attenta di come andarono effettivamente le cose in diverse tradizioni così diverse, così ramificate, come fu il caso per esempio di italiano, tenendo conto anche che le dimensioni regionali nel 600 sono più forti che in altri momenti, se ancora una volta ci si richiama alla storia dell'arte, dove si vedono nascere le grandi tradizioni delle storie dell'arte regionale in funzione antifiorentina. E quindi un'analisi sempre più ramificata, sempre più attenta a materiali che esistono e che solo in parte sono stati utilizzati. Questo perché una tipologia troppo tradizionale non si sovrapponga troppo presto a quelli che sono i dati concreti, vari e qualche volta sorprendenti. Dall'altra parte, una tipologia modernamente costituita sulla base di quella inchiesta e che giochi quindi all'interpretazione dei fatti che in parte abbiamo definito e in parte ci restano ancora da definire. Qui diventerebbe anche necessaria, io credo, un'analisi semantica che ancora non è stata condotta, poiché è evidente, come diceva anche la professoressa Böhm, che la parola accademia viene usata contemporaneamente in due sensi, o come sinonimo di università in molti casi, o come qualche cosa di diverso. E soltanto il contesto semantico, la consapevolezza d'uso, le ragioni culturali, permettono a questo punto di differenziare la situazione. Non tocca a me, perché il professor Olmi si occuperà della cosa, ma per entrare subito in un argomento concreto vorrei prendere uno dei primi documenti, se restiamo all'interno del secolo che abbiamo prescelto, cioè il discorso che più lo si legge e più lascia qualche ragione di stupore, il discorso del Cesi, il fondatore privato dei Lincei, siamo nelle prime decadi del 600, dove egli parla a lungo del rapporto tra accademia e università, ma è un documento dall'interno, e non c'è dubbio che la sua diagnosi è che la università, così come è costruita, non può soddisfare a certe esigenze per le quali invece occorre una diversa organizzazione che egli chiama poi l'Accademia dei Lincei. Se avessi tempo, vorrei leggere lunghi estratti di questo testo, proprio perché senza un'analisi precisa noi non saremmo in grado di definire poi certi modelli e vederne anche la loro vita sotterranea, evitando di stabilire delle correlazioni, come accade nelle arti figurative, che poi sono da smentire di fronte a un sistema più articolato e più ricco di particolari. Innanzitutto, nell'Accademia dei Lincei compare la parola scienze filologiche, e da una parte vi è il mondo scientifico e dall'altra vi è l'attività filologica, l'aggettivo è il suo, come contrapposizione a una letteratura che sia soltanto di poesia senza sapere. E poiché dalle prime pagine compare il nome di Ficino, ecco che nasce subito una questione, il rapporto con il passato e il perché di certe sostituzioni. Basterebbe che io leggessi il finale dove viene detto l'Accademia sarà l'Accademia dei Lincei, le parole sono importanti, una congregazione, un seminario, un ridotto, ovvero ritirata di professori, scrittori e sperimentatori in filosofia e matematica particolarmente, né però senza l'ornamento di filologia. È uno dei primi documenti con una notevolissima consapevolezza del rapporto con il mondo universitario, poiché se la mia fotocopia e i miei occhi non sono troppo nemici, a metà del suo discorso il Cesi dichiara, dopo aver fatto una certa analisi, che non deve certo negarsi che le pubbliche università, ovvero accademie, e i collegi e seminari non abbiano in parte avuta questa mira. Sta parlando di una certa nozione del sapere che non sia soltanto un'attività professionale, ma sia il sapere come ricerca profondamente disinteressata. E similmente le accademie private, quindi vi è già consapevole una contrapposizione a un altro tipo di accademia, ma però né hanno provveduto abbastanza, né sono seguitate con quei progressi che ne pretendevano gli istitutori, cedendo per lo più ai correnti abusi e ai fini più comuni, come di sopra si è detto. Qui la consapevolezza è straordinariamente avvertita e intensa, e soltanto analisi di questo tipo possono poi portarci nel vivo di questa realtà, della quale bisognerebbe fare anche conto di altre ragioni, alle quali per esempio il professor Benzoni ha in qualche modo cercato di dare risposta nei suoi Affanni della cultura, ed è che insieme al ruolo di coloro, il ruolo sociale di coloro che partecipano alle accademie, occorre anche conoscere le motivazioni psicologiche, le ragioni che portano alcuni di essi, non coloro che ripetono i paradigmi, ma coloro che vogliono definirli, a certe scelte, a certe preferenze, a certi giudizi. E poiché sono in un'area, diciamo così, di testi e di documenti, ma ho subito finito, è soltanto perché così dalla cornice sono entrato anche in un piccolo particolare del paesaggio che sta ad altri però di dipingere, vorrei anche segnalare a metà tra la letteratura, la storia della cultura e quella che chiamavo prima la semantica, non me ne ero accorto prima, ci voleva questo seminario perché me ne rendessi conto, che se si vanno ad aprire i simboli trasportati al morale di Daniello Bartoli, un testo, no, era la geografia, un testo però che ricordava anche Leibniz, come segnalava nelle sue pagine sull'enciclopedismo barocco il professor Vasoli, l'ultimo capitolo del primo libro è un tentativo di storia della scienza scelto attraverso due esempi, le scoperte astronomiche e la circolazione del sangue. E il capitolo, con questo gusto immaginoso, al quale però bisogna dare anche un correlato reale, è intitolato «I cervi che d'accordo passano il mare». Ma quello che interessa è il concetto esplicativo, i letterati che si uniscono a scoprire verità nuove per aggiungerle alle antiche, dove, lo sappiamo bene, il letterato è termine estremamente ampio che enuclea al suo interno le possibilità che il Cesi aveva definito nel modo che si è visto. Ma il capitolo del Bartoli, interessante anche per come viene recitata una certa storia, è da segnalare anche per un'altra ragione, che si apre con una circostanza concreta della vita culturale romana, e questa è l'occasione per il suo discorso, ed è la pubblicazione del Giornale dei Letterati, cioè il primo esempio italiano sul modello del Journal des Savants e dall'altra parte dei modelli inglesi, il che invita a stabilire tutta una serie di correlazioni e di osservazioni, così come poi, sfogliando il testo del Bartoli e cercando di ricostruire questi richiami evidenti o nascosti, si scopre che compare tutta una terminologia di nuovo a proposito dell'Accademia, e la parola che più di frequente mi è parso di trovare è la parola comunità, con una serie di considerazioni, poiché anche di questo si doveva discutere, a proposito della tecnica della circolazione, delle notizie e delle scoperte, ma notizie era la parola più corrente, e l'etica della discussione, della dialettica, dell'accettazione e del rifiuto. E anche qui credo che il giurista, là dove si parla della comunità che è un corpo solo e si parla del singolo che trae vantaggio dalla pienezza della comunità presente e passata, il giurista da una parte e lo storico, lo psicologo dall'altra, potrebbero probabilmente fare qualche tesoro. Dunque, un insieme di ipotesi che in parte sono state già percorse, che in parte si cominciano a percorrere, la convergenza da molte direzioni nel segnalare l'importanza del fenomeno e la necessità di ricollocarlo a tutti gli effetti, come avevano già fatto i grandi eruditi del Settecento, usciti da questo clima e da questa temperie, ricollocarli nel centro della nostra storia della cultura. Grazie. Ja, ich kann nun, ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, alles nochmals zu übertragen. Aber Herr Professor Raimondi hat einige meines Erachtens sehr interessante Gesichtspunkte hier vorgetragen zur Einführung. zunächst einige, ja, eigentlich eine Bibliografie wichtiger Werke gegeben. Da wäre es natürlich schön, wenn wir die auf einem Papier die Namen hätten. Ja. Am Ende, denn für die deutschen Teilnehmer sind nicht alle, mit Ausnahme natürlich von Schöne und von Riegler, nicht alle die von Ihnen genannten Werke älterer und neuerer Art aus dem 19. Jahrhundert zugänglich. Zum Zweiten, das stimmt überein, eigentlich, oder berührt sich mit dem, was ich auch beobachtet habe, stellt das 17. Jahrhundert auch für die italienische Kultur- und Akademiegeschichte eine Kernzeit und eine Zeit vor allem der großen Transformationen und der Wendepunkte dar. Das Zeitalter des Barock, Sie haben ja verschiedene Werke genannt, in denen speziell auch der Barockbegriff vorkommt, den ich vermieden habe. Mir scheint es sehr interessant, dass die Betrachtung der Akademiegeschichte, bitte korrigieren Sie mich, ja, wenn ich es falsch verstehe, in der italienischen Wissenschaftsgeschichte stärker vom Gesichtspunkt der Literaturgeschichte betrachtet wird, als vom Gesichtspunkt der Wissenschaftsgeschichte. Ist jedenfalls sehr stark als Literaturgeschichte, im Zusammenhang wohl auch des Literaturhistorie. Ja, ja. Dann ist sehr interessant mir der Gesichtspunkt, drittens, nämlich dass seit dem 17. oder im 17. Jahrhundert die Aktivität, die auch in der vorchristlichen Antike, während Universität als römischer Rechtsbegriff die Bezeichnung für die Korporation ist. Und hier liegen ja auch Verfassungsunterschiede zwischen Akademie und, also ich würde die Synonymität von Universität und Akademie als Begriffe nicht. Die kann auch in Italien sein ein Synonym für Universität. Für Universität. Aber es ist nicht wahr. Nicht umgekehrt. Umgekehrt. Ja, ja, ja, ja. Dann sprachen Sie über die Accademia dei Lincei. Das wäre vielleicht besser, wenn Sie selbst es wiederholen. Und dann zum Schluss über das Werk von Daniello Bartoli, das offensichtlich sehr grundlegend ist, gerade als Parallele zu Leibniz, vor allem wegen der Ausführungen auch über die oder Gedanken über die Technik der Konversation, Technik der Kommunikation, Technik der Periodika, der Journale, überhaupt des wissenschaftlichen Schrifttums, was ja ein Kernproblem ist auch für den Ursprung oft von Akademiegründungen. Manche Akademiegründungen im deutschen Raum beginnen mit der Gründung von Periodika. Ja. Sogar primär ist oft die Gründung von Periodika, von Zeitschriften, bevor die Akademie als Institution ins Leben tritt. Darum scheint mir dieses Buch von Daniello Bartoli also ganz grundlegend parallel zu Leibniz. Aber zu den anderen Gesichtspunkten. Ja, die Akademie dei Lincei. Ja, das habe ich, da hatten Sie ich sehr... Ich hatte nur behauptet, dass es ist nötig, dass wir feststellen, die Semantik des Begriffs der Akademie, wie ein Begründer vorgestellt hat. In diesem Fall, was war Akademie für Federico Cesi? Um zu antworten, las ich seine Seiten und ich kommentierte, es ist nötig, dass wir folgen dem Netz der Wörter und Begriffe, wie sie oder in einem Buch oder in einem Referat, in einem Essay etc. so weiter, von dem Bewusstsein eines Begründers geschrieben worden sind. Ja. Natürlich auch die Frage der Statuten, auch bei, ja, bei privaten gelehrten Vereinen gibt es Statuten. Natürlich gibt es Statuten für Akademie der Vice in Polen. Dann die erste Quelle sind, ja, auch für die Begriffsgeschichte. Wie wollen wir es weitermachen? Ja. Eine Pause und dann... All'amico, in questo caso dico così, all'amico Vasoli, sì, questa parola professore oramai dopo le prime battute va eliminata. Si penserebbe anche di fare in questo modo, dopo la relazione di Vasoli cominciamo una prima discussione, poi ci sarà una giusta esigenza alla quale tutti da amici faremo fronte, nel pomeriggio dopo la relazione già